Sono le 8 e 1 minuto e 30 secondi. Che scandalo, Spadino. Questo è ritardo. Burro e rock and roll. Però è l'orologio nostro, quindi guarda. La tua colazione rock. La migliore in circolazione, bentornati. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Allacciate a doppia mandata le vostre cinture di sicurezza perché inizia la seconda ora di pane, burro e rock and roll. Questo messaggio era per chi era in macchina. Per chi è lì che si sta ancora lavando la faccia, tenetevi forte perché altri 60 minuti in nostra compagnia sicuramente faranno male al vostro cervello. Buona giornata dall'Ariele, Fricantoni, Isaac Rizzi e la nostra redazione. Oggi è mercoledì 30 gennaio 2008, l'anno della svolta, e questa è la puntata 172. Tranquilli amici della seconda parte, i Led Zeppelin col Casulli abbiamo già fatti nella prima, quindi non ve li riproponiamo così, no dai. No, adesso il grande attesa è per la puntata di Zorrock, che andrà in onda, lo dico ufficialmente, venerdì. Ecco, l'ho detto, mi sono tolto sto peso. Abbiamo qualche problema da affrontare, un paio non li accenno perché poi va a finire che scompagino la scaletta e non si ritorna lì. Sicuramente aggiornamenti sul carro di Celle Ligure di domenica, appuntamento ve lo ricordo alle 14.30 a Piani di Celle, domenica 3. E la novità del nostro carro arriva da Mario, quello che lo sta costruendo. La novità si chiama mortaio, non posso dire altro. Mortaio che spara le caramelle, così mi è stato detto. Approfondiremo nel corso della puntata. Mi era venuta in mente un'altra cosa che ovviamente a quest'ora mi sparisce dal cervello a velocità della luce. Iniziamo la seconda ora con il brano consigliato dalla redazione di Easy Rider. Oggi Mox però l'avevo un po' picchiettato io, perché ci propone i mitici Devo, 1982, That's Good. Questa è roba buona. piccoli problemi di cuore e ale ale ale oh oh. Che bella notizia! Allora ragazzi, è ufficiale, da lunedì ci troverete The Rock FM. Ragazzi, che bello! Ci divertiremo come mai. Ma non fai colazione? Aspetto l'ispirazione. Scegli una colazione diversa. Scegli pane, burro e rock and roll. Ci sono notizie che ritemprano. Lei dice come? Caro Ariel, notizie che mettono di buon umore. Ah, beh, ce n'è bisogno. Sì, nonostante siano a volte anche devastanti. Sono forse quelle che chiamiamo strano ma vero qui a Pane, Burro e Rock'n'Roll. Esatto, raschiare il fondo del barile e recuperare le notizie che gli altri hanno buttato. Le ansie in ansia. Bel titolo quello di oggi, la prego, ce lo mostri. Sigla! Drogato fugge con un furgone funebre. arrestato. Sai che l'ho già sentita questa, ne avevamo già data una simile. È vero. Dopo essersi strafatto di cocaina, ha distrutto diverse auto e poi è scappato con il furgone funebre, rendendosi protagonista di uno spericolato inseguimento protrattosi per oltre un'ora lungo le strade di Busto Arsizio, Castellanza e Legnano. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia, una volante è intervenuta a Busto Arsizio dopo la segnalazione di un uomo che stava danneggiando le auto in sosta prendendole a calci. Giunti sul posto, i poliziotti lo hanno individuato mentre stava salendo sul furgone funebre. Gli hanno intimato di fermarsi, ma lui ha ingranato la marcia ed è partito a tutta velocità. È così iniziato l'inseguimento lungo le vie della cittadina fino al semaforo del Buon Gesù, dove il fuggiasco è stato costretto a fermarsi dietro alle auto in coda. Il capo pattuglia è sceso dalla volante invitandolo, pistola in pugno, a scendere. Lui invece, con una repentina manovra, è ripartito puntando il mezzo contro la gente e sradicando la portiera dell'auto della polizia. La gente è stato urtato leggermente ad una mano, ma è riuscito ad evitare l'inseguimento. La folle corsa è proseguita fino a Castellanza e quindi, come detto, a Legnano, dove una pattuglia della volante legnanese del posto, dunque, è riuscita ad affiancarlo, ma è stata ripetutamente speronata dal furgone funebre. Neanche alcuni colpi di pistola sono serviti a fermare l'uomo fino a che non ha imboccato una strada a fondo cieco. Costretto alla resa, ha preso a testate i poliziotti, ma alla fine è stato ammanettato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Per lui anche denuncia per danneggiamento. Sottoposto ad accertamenti medici, è risultato essere sotto effetto di cocaina e per questo gli è stata ritirata immediatamente la patente. L'uomo di professione fa il becchino ed è contitolare di un'agenzia di pompe funebri. Un applauso al signore. Sentitissimo. Sa cos'è carino? Che è del Varesotto sta roba. Queste sono tutte strade che faccio io tutti i giorni. Ah, bene. Sì, a volte capita. Non le verrà la voglia di emulare? No, più che altro mi viene il dubbio perché io vivo di fianco a una ditta di onoranze funebri. Aia. Non vorrei che fossero loro. Aia. Dovrei informarmi. Sì, però tutto sommato è stata nel suo genere da evitare, esecrabile quanto si vuole. La prego, però, la morale. La morale è che comunque è bello pilotare un carro funebre e sfasciare le automobili. Diciamo la verità, le merci ci piacciono anche da rompere. Perché ci divertiamo tanto vedendo quei film americani in cui si sfasciano noi non possiamo automobili? Farlo. La prego, e si noi... fermi. Prenda la pastiglia. Buona, eh? Sto molto meglio. Lo sapevo. Grazie. Pare burro, mazza che figata sto programma, raga. arriva la pioggia e in realtà effettivamente a Milano non mettiamo il caldo, tu avrai già da un po' che sta piovicinando. Mattinata plumbea quella nella Milano dalla quale vi stiamo parlando. Occupiamoci dell'annoso problema del precariato, soprattutto per le rockstar italiane. Come Roberto Fricantoni, si deve sbarcare il lunario un po' come viene. Lui sfrutta la sua vena poetica e a volte abbandona la radio per scendere qua sotto. Abbiamo la fermata di Repubblica Metropolitana, veramente a un passo, e si arrotonda un po' così. Buongiorno, buongiorno a tutti, salve, salve, buongiorno signore, la vedo abbacchiata a quest'ora del mattino, grazie signora, no no, per carità, non sono qui per chiedere l'elemosina, e io, siccome un momentaccio, mi presento, Roberto Fricantoni degli Schiantos, fine dicitore, cantante, paroliere e poeta, ecco, vorrei sottoporvi le poesie non mie, per carità, non sono così presuntuoso, ma di un poeta che ammiro tantissimo, Fosco Maraini. Lei conoscerà Dacia Maraini, signora, la grande scrittrice. Via Veneto, senta, senta che forza poetica, via Veneto. Il tronfero s'ammalvola in verbizie, incantando sberboli, giocaci, sbramina con solennidi e vulpizie tra i tavoli e gli ortedoni fugaci. Tenga, complimenti, eh. Grazie, 5 euro. Troppo, troppo. Ah, le ho dato 5 euro, scusi, sì. Pensavo fosse il biglietto da visita, arrivederci. Vabbè, grazie lo stesso. È il pensiero che conta per noi poeti. Però 5 euro. Buffalo Springfield, For What It's Worth. Ci sono un paio di tormentoni che potrei tirar fuori per annunciare l'amico che ho in linea telefonica. Uno è ognuno ai radioascoltatori che si merita, e questo è un vecchio detto di Pane, Burro e Rock'n'Roll. E il secondo potrebbe essere: se non sono rock, non li vogliamo Buongiorno Emi, 28 anni, Firenze, buona giornata. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Sentite la voce di Emi sofferente ed è proprio questo il cardine della sua telefonata. Emi ci contatta perché sa che essendo noi una community, se uno di noi ha un problema, spesso altri hanno la soluzione da consigliare. Giusto? Spero vivamente in questo caso, più che mai. In questo momento Emi mi sta guidando il pullman a Firenze. Esatto, in questo momento sì, sono a Montecatini. A Montecatini, sono, ok. Sono verso Viareggio, sì. Ah, verso Viareggio, ok. Sì, sì, no. Dalla concorrenza dei carri di carnevale, che salutiamo tra l'altro. Esatto, ma lì sono professionisti però. Esatto. Ma noi siamo della nicchia, quindi caro Emi, ci accontentiamo così. Allora, l'anno prossimo saremo a Viareggio, dai. L'anno prossimo lo spostiamo a Viareggio. Esatto. Però spostiamo quello di Celle a Viareggio. Vabbè, sì, sì. Questo è un altro problema. Dicevamo, se non sono rock non li vogliamo. Emi, come probabilmente molti di voi, ha la passione per lo snowboard. Nata quest'anno, vedo. È nata quest'anno, un principiante. Come spesso e volentieri capita ai principianti dello snowboard, quando ci sei andato? Questo fine settimana, venerdì, sabato, domenica e lunedì. Quattro giorni di ferrone. Poi. Attento che poi ovviamente alla lunga le gambe si spezzano e ti fai male. Infatti, è sempre così. Dove sei andato di bello? Sul Simone, qui in zona da noi, quelle parti. Ok, il problema di Emi si concentra in una zona particolare della sua struttura umana dove è caduto più e più volte. Sempre ritirate sulla stessa parte, no? Ovvero la natica destra. Bravo, che stile, che stile. Da fiorentino non me lo sarei aspettato, invece qui c'è dello stile. La natica destra è tumefatta, potremmo dire. Sì, tumefatta, siamo in fascia protetta, Siamo in fascia, esatto. Potrete capire il problema di Emi, che ripeto sta guidando il pullman. E quindi è un problema di postura. Di postura. Sì. Ma tu in questo momento, perdonami, sei sulla sinistra? Sì, sono sbilanciato. Sì. Da una parte. Quindi stai guidando, aprendo la porta, l'auricolare nella destra che parla con Rock FM e la chiave. E saluto anche le persone esce. E saluti anche, perché sei gentile. Sì, Emi, guarda. E non so che dirti, come ti guardano? Ma è uno sguardo un po' che, così, cos'ha un po' curioso, tipo, un incrocio fra scoliosi oppure quella postura che assumi quando devi fare qualcosa. Ecco, no? Era proprio quello che stavo pensando. Gli viene il dubbio. Sì. Guarda questo pulmista cosa fa. Ma senti, cos'è questo dolore? Io volevo regalare questa immagine ai radioascoltatori che ti hanno immaginato appoggiato sulla chiappa sinistra che guidi il pullman. Un altro particolare, cioè, il piumino sotto dalla parte di là. Sì, cioè fra il sedile e me ho messo il piumino per cercare di attutire un po' il colpo. Senti, speriamo passi presto, io tengo il tuo numero che magari ci dai degli aggiornamenti nelle prossime giornate. Ora siamo proprio all'apice. Guarda, facciamo così, non chiediamo aiuto ai radioascoltatori perché tanto lo so che direbbero delle boiate. Accontentiamoci di esserci sfogati così. Vero, ti diamo solidarietà, Emi. Ok, grazie. Grazie molto. Buon proseguimento di giornata sulla sinistra. Solo sulla sinistra. Ciao. Ciao, Ariane. Voi chi vi lamentate che siete in tangenziale in coda, pensate a Emi, Porratin. Cioè, non puoi appoggiarti di lì. E voi amici di Montecatini che salite sul pullman, se vedete uno che guida un po' storto, dategli un po' di solidarietà. Se non c'è solidarietà tra rocker. Cos'è difficile dell'essere un vero rocker? Me lo dica, per favore. Dover impazzire dietro a tutti quei maledetti nomi e cognomi di americani, inglesi e patapim e patapam che stavano nel dietro le quinte, che lavoravano, che hanno creato la storia della musica rock. L'unica è prenderla a piccole dosi. Certo. Passo dopo passo, nel tempo. Perché si sappia, per avercela la patente da vero rocker, queste cose vanno sapute. Vanno immagazzinate nella propria mente, fanno parte della cultura di un rockettaro medio. E impariamone una anche quest'oggi, se non doveste saperla. Ci chiediamo chi Come? È una persona col test attitudinale. Col test attitudinale, molto giusto. Chi è Lawrence Hammond? Lawrence Hammond. Ma guarda. Tre possibili ipotesi. La prima. Un signore che inventò un organo da lui stesso, poi dal suo nome, voglio dire, definito Hammond. Oppure ipotesi B, è il fondatore della celebre band tedesca le Hammond Inferno. Oppure ipotesi C, è lo storico manager di Elvis Presley, meglio riconosciuto con l'appellativo de Il Colonnello. Chi è Lawrence Hammond? Ipotesi A, B o C? La soluzione esatta ve la diamo tra poco, e c'è la risposta giusta poco dopo. Restate con noi.